Il senso di questa iniziativa deriva dal fatto che stiamo vedendo anche a Bologna, come in altre città d'Italia, questa trend che vede una sostanziale creazione di una bolla degli affitti per quanto riguarda le abitazioni riservate ai privati, bolla che deriva anche da un cambiamento delle politiche anche cittadine che hanno visto queste città diventare delle mete di un certo turismo di massa. Questo ha ingenerato tutta una serie di dinamiche per cui oggi per uno studente, per un lavoratore migrante, nel senso di chi si deve spostare dalla propria città natale, no? Per andare a lavorare in un luogo diverso, per chi ha studiato qui e si ferma come lavoratore, ma anche per chi vuole farsi una famiglia e quindi cerca casa, diventa sempre più difficile trovare un alloggio ad un prezzo equo e giusto. Da qui le proteste che noi stiamo vedendo, che vedono in prima fila gli studenti con le manifestazioni, le iniziative con le tende davanti alle università, ma è una questione che non coinvolge solo gli studenti, ma come dicevo coinvolge anche tutte altre fasce della nostra società, privandole di opportunità chiaramente, perché il diritto all'abitare è uno dei diritti essenziali dell'uomo, no? E in questo incontro metterete a confronto anche esperienze e sensibilità diverse proprio per avere un quadro più completo. Chi sono gli ospiti di questo incontro? Avremo Fabio D'Alfonso di Pensare Urbano, avremo Evelina Pasquetti e Nicolò Munari dell'associazione Mi Riconosci. Sono un professionista dei beni culturali, un'associazione che abbiamo imparato a conoscere grazie alle sue numerose battaglie per i lavoratori e per i diritti di chi lavora nel campo dei beni e delle attività culturali. Avremo Stefania Scari, deputata del Movimento 5 Stelle, e in attesa di conferma, ma io mi auguro che sarà vivamente con noi, è Francesco Silvestri, il capogruppo alla Camera per il Movimento 5 Stelle, che è già stato a Bologna e ha già partecipato a un dibattito sul diritto all'abitare in occasione della festa di Coalizione Civica. Quindi già, come dire, dalla selezione degli ospiti si capisce che il problema della casa è un problema che investe diversi livelli istituzionali, da quello locale a quello nazionale. Assolutamente, assolutamente, investe chiaramente in prima battuta i comuni, perché sono quelli che per primi si trovano a dover gestire le esigenze, i bisogni e le criticità che nascono, no, da queste dinamiche. E poi chiaramente c'è anche il livello nazionale, perché poi qui diciamo entriamo anche in un discorso per esempio di utilizzo di piattaforme, penso per esempio a Airbnb perché è quella più citata, ma non solo, e quindi si entra anche nel campo di una regolamentazione rispetto alla presenza di queste piattaforme, al ruolo che giocano e anche a come talvolta i privati le utilizzano per affittare immobili, chiaramente avendo delle entrate che però in certi casi si rivelano essere, come dire, delle attività vere e proprie di impresa, senza però magari essere raggiunte da una normativa adeguata quando l'affitto e la locazione diventa una vera e propria attività di impresa. Al termine, diciamo, del panel dei relatori abbiamo riservato anche un ampio spazio per il dibattito e quindi noi ci auguriamo davvero che possa nascere una bella interlocuzione tra il pubblico e i nostri relatori, perché la finalità di questo incontro è proprio promuovere un confronto di idee, un incontro di pensieri, di opinioni, ma anche di proposte.